البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا ما قانون دولي قانون. Buongiorno Palestina. 140esima trasmissione su Radio Wombat. Riprendiamo oggi, 18 settembre, le trasmissioni in diretta, ma dobbiamo ricordare che anche durante tutto il mese di agosto vi sono state iniziative e presidi settimanali per la Palestina in tutto il territorio toscano. In particolare il 31 agosto si è svolta una vivace manifestazione in Piazza della Signoria a Firenze su iniziativa della sezione fiorentina dei giovani palestinesi in Italia. A conclusione del presidio, Bilal ha espresso un breve, incisivo e appassionato discorso di cui riportiamo il contenuto in una successiva rilettura da una voce femminile. Le organizzazioni palestinesi per i diritti umani documentano da decenni crimini internazionali commessi dalle autorità israeliane in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e nella striscia di Gaza. È nota la loro collaborazione con la Corte Penale Internazionale, a cui hanno fornito importanti informazioni e per questo spesso sono state bersaglio di una serie di attacchi da parte del governo israeliano. Giovedì 12 settembre alle ore 16, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta una conferenza stampa dal titolo «Gaza e Cisgiordania». Convenzione sul genocidio e il ruolo della società civile palestinese, organizzata dall'Associazione delle ONG italiane, dall'ARCI, da Assopace Palestina e Amnesty International, su iniziativa della presidente dell'Intergruppo parlamentare per la pace, Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle. Alla conferenza hanno partecipato Raji Sourani, direttore e fondatore del Palestinian Center for Human Rights di Gaza, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, Triestino Mariniello, ordinario di diritto penale internazionale presso la Liverpool John Moore University e rappresentante legale delle vittime di Gaza di fronte alla Corte Penale Internazionale. Hanno partecipato anche Laura Boldrini del Partito Democratico, Fratoianni di Alleanza Verde a Sinistra, ha coordinato l'incontro Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. In questa trasmissione vi faremo ascoltare alcune parti degli interventi, parti che abbiamo ritenuto più rilevanti. La conferenza integrale è ascoltabile al link che troverete sulla pagina del nostro blog. La trasmissione di oggi andrà in onda senza la consueta rassegna stampa che riprenderà ad ottobre. In questo numero ascolterete un estratto di un articolo di Craig Mochiber pubblicato sul Mondo Ways il 10 settembre sempre sul tema del diritto, argomento che abbiamo affrontato oggi e che in questo caso tratta del diritto alla difesa. L'estratto è a cura di Sara. Per finire vi daremo notizie delle iniziative ed eventi per la Palestina che si terranno sul territorio toscano entro la fine del mese di settembre. Shila na da oyami Da un articolo di Craig Mochiber del 10 settembre 2024 pubblicato su Mondo Ways leggiamo questo titolo: No, Israele non ha il diritto di difendersi a Gaza, ma il popolo palestinese sì. La più basilare morale e la semplice logica impongono che sia il popolo palestinese ad avere il diritto di autodifesa, non il suo oppressore. E il diritto internazionale è d'accordo. Una delle molte rivelazioni emerse durante l'ultima fase di genocidio in Palestina è il grado in cui la classe politica statunitense e occidentale è disposta ad attenersi al copione che gli viene fornito da Israele e dalle sue lobby. Un esempio su tutti è la scusa dell'autodifesa. Dopo ogni crimine commesso da Israele, il ritornello più diffuso dei governi occidentali è che Israele ha il diritto di difendersi. Non è così. In realtà, dal punto di vista del diritto internazionale, si tratta di una doppia menzogna. In primo luogo, Israele non possiede tale diritto a Gaza, né in Cisgiordania, né a Gerusalemme Est. In secondo luogo, gli atti che le rivendicazioni di autodifesa cercano di giustificare sono illegali anche qualora si applicasse il principio della legittima difesa. La Carta delle Nazioni Unite codifica dei principali diritti, come le responsabilità degli stati. Fra questi c'è il diritto all'autodeterminazione e quindi il dovere di rispettare l'autodeterminazione dei popoli, come quello di il dovere di astenersi dall'uso della forza contro altri stati. Israele nei 76 anni della sua esistenza ha continuativamente violato tali principi. Il diritto di autodifesa, che è uno di questi principi codificati, è sancito dall'articolo 51 della Carta, ma è importante notare che tale diritto non esiste, non sussiste laddove la minaccia provenga dall'interno del territorio controllato dallo Stato. Questo principio nel contesto palestinese è stato affermato dalla Corte di Giustizia Internazionale nel suo parere consultivo del 2004 relativo alla legalità del muro costruito da Israele. La Corte ha stabilito allora, e di nuovo lo ha stabilito nel suo parere consultivo di luglio 2024, che Israele è la potenza occupante nei territori palestinesi occupati. In quanto tale, Israele non può invocare l'autodifesa come giustificazione per lanciare attacchi militari contro la popolazione palestinese. Al contrario, il suo principale obbligo sarebbe quello di proteggere la popolazione che occupa. Quindi, molto semplicemente, le eventuali affermazioni di politici e all'interno di media occidentali secondo cui Israele ha il diritto di autodifesa sono palesemente false e infondate. La seconda menzogna contenuta in queste ripetute affermazioni è il suggerimento che la pretesa di autodifesa giustifichi la miriade di crimini commessi da Israele. Il diritto internazionale in realtà non permette che una rivendicazione di autodifesa giustifichi crimini contro l'umanità e il genocidio, né il diritto supera magicamente nella sua codifica dell'autodifesa supera imperativi del diritto internazionale relativi alla distinzione e alla proporzionalità, oppure lo status di protezione di cui dovrebbero sempre godere infrastrutture civili e ospedali. Attaccare gli ospedali non è un atto di autodifesa, è un atto di omicidio e in casi sistematici e su larga scala come questo costituisce un crimine di sterminio. La rivendicazione della legittima difesa non giustifica tutte le punizioni collettive, gli assedi, le esecuzioni, la tortura, il blocco degli aiuti umanitari, l'uccisione di minori, l'assassinio del personale umanitario, del personale medico, dei giornalisti. Difatti, la risposta, ogni eventuale risposta di una figura politica o di una voce complice del media mainstream che inizia con Israele ha il diritto di difendersi è allo stesso tempo una giustificazione di qualcosa di ingiustificabile e una bugia enorme, spudorata. Inoltre, quello che non sentirete dire da queste voci mainstream è che la Palestina ha il diritto di difendersi, invece secondo il diritto internazionale ce l'ha e come. Infatti sia la Carta delle Nazioni Unite, sia il diritto internazionale umanitario, sia una lunga serie di risoluzioni sempre delle Nazioni Unite codificano di fatto il diritto alla resistenza, di cui che è naturalmente applicabile ai gruppi di resistenza palestinese, che quindi hanno il diritto alla resistenza armata per liberare il proprio popolo dall'occupazione straniera e dalla dominazione coloniale. Naturalmente ogni resistenza deve rispettare le regole del diritto umanitario, compreso il principio di distinzione fra combattenti e civili, ma il diritto della Palestina e dei palestinesi alla resistenza contro Israele è ormai un diritto assodato. E poiché la resistenza è lecita, sono leciti anche le alleanze, gli aiuti e il sostegno al popolo palestinese. Al contrario, poiché l'occupazione, l'apartheid e il genocidio di Israele sono illegali, il sostegno allo Stato di Israele da parte degli Stati occidentali è di fatto illegale. Della sezione di Firenze di giovani palestinesi in Italia, il 31 agosto si è svolta una vivace manifestazione in Piazza della Signoria a Firenze. A conclusione del presidio, Bilal ha espresso questo breve, incisivo e appassionato discorso, letto ora da Manuela. Ascoltiamo. Cosa dobbiamo denunciare ancora per meritare il vostro ascolto? Cosa dobbiamo fare per avere la vostra empatia, per considerare i palestinesi degli umani, umani simili a voi? Dobbiamo parlarvi dei nostri 40.000 uccisi civili? I 15.000 bambini innocenti ammazzati? I 100.000 civili arrestati e torturati? Lo sapete che la punizione collettiva è un crimine di guerra? Lo sapete che bombardare i civili è un crimine di guerra? Lo sapete che affamare un popolo intero è un crimine di guerra? Dobbiamo denunciare le donne e uomini violentati nelle carceri israeliane? Dobbiamo denunciare i nostri bambini rapiti da Gaza, di cui non sappiamo che fine faranno? Gli ospedali distrutti e bruciati? Le scuole distrutte? Le moschee e le chiese? Sul nostro popolo sono stati attuati tutti i crimini di guerra, quelli visti prima e quelli mai visti prima. I soldati israeliani rubano persino gli organi dei corpi dei nostri morti, gli tolgono la pelle e tengono in ostaggio i loro corpi. Cosa dobbiamo dirvi ancora? Posso andare ore a raccontarvi dei crimini compiuti in questi 11 mesi e in questi 76 anni di occupazione, di demolizione dell'uomo e della società palestinese. Vi posso dire che stiamo subendo un genocidio, ma non lo possiamo chiamare tale. Rischiamo che subito una senatrice a vita ci denunci. Vi posso dire che esiste un campo di concentramento simile ad Auschwitz, oggigiorno, che si chiama Zeitelman, dove i detenuti palestinesi vengono stuprati, affamati, torturati e uccisi, poi fotografati dai soldati israeliani e le foto pubblicate sui social affinché i soldati possano vantarsi del crimine compiuto. Cosa dobbiamo raccontare per riscuotere le vostre coscienze che non vogliono svegliarci? Giratevi dall'altra parte come volete e fate finta di nulla, ma non ci parlate di diritti umani, mai più. Non nominate il diritto internazionale, non vi chiamate più democratici perché non lo siete, siete testimoni solo del vostro vergognoso silenzio. Al vostro governo che si è reso complice dello Stato assassino di Israele nei suoi crimini contro l'umanità diciamo no, non la passerete liscia. Il vostro servilismo al potere dei sionisti è vomitevole. Alla sindaca di Firenze, che non si è mai espressa contro i crimini fatti dallo Stato israeliano, diciamo che non dimenticheremo il suo vergognoso silenzio, perché nel suo silenzio si è resa complice. Firenze deve avere un ruolo diverso, deve mandare un messaggio forte per far rispettare i diritti umani, ma te, sindaca, e la tua giunta vi siete resi ostaggio del vostro amico console di Israele. Avete paura di prendere un'iniziativa per la pace? Avete paura a rispondere alla lettera di Firenze per la Palestina? O aspettate che muoiano tutti i palestinesi per mandarci un mazzo di fiori? Firenze è gemellata con la città di Nablus, che da giorni è sotto assedio, una città patrimonio dell'UNESCO, resa campo di bombardamento per l'esercito israeliano. Su questo lei, sindaca, non vuole spendere una parola? Sarà la storia a giudicarvi e noi faremo di tutto per ricordare che nel momento in cui morivano 40.000 civili palestinesi, voi restavate in silenzio. Vergognatevi! In 1948 the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and city shelled, from the traitors in Transjordan to clandestine British demand, by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that one passiamo ora alla presentazione della conferenza stampa tenutasi il 12 settembre alla Camera dei Deputati. L'evento è stata un'occasione unica per raccontare l'impatto del lavoro delle ONG, delle organizzazioni non governative, sui recenti sviluppi della posizione dello Stato di Israele dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia e alla Corte Penale Internazionale e aggiornare la stampa sulla grave crisi umanitaria in corso nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata. Iniziamo con l'intervento di Stefania Ascari, presidente del gruppo interparlamentare per la pace tra Israele e Palestina, che ci spiega anche quali siano i lavori e le finalità del gruppo. A tutte, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto grazie per questo veramente straordinario momento all'interno delle istituzioni. L'intergruppo per la pace tra Israele e Palestina che coordino ha veramente voluto fortemente che oggi si tenesse questa importante conferenza stampa e soprattutto veramente un ringrazio, lasciatemelo dire, a Luisa Morgandini, già Presidente del Parlamento Europeo, Presidente di Pace Palestina, per il supporto, la colonna portante, l'aiuto che ci dà come intergruppo, a tutte le ONG, le associazioni, i sindacati che ci supportano, e Francesca Albanese, che per noi veramente è un punto di riferimento, non smetteremo mai di dirle grazie, una delle poche voci libere, serie, competenti. Grazie veramente alla presenza di Raji Sorani, direttore e fondatore del Palestinian Center for Human Rights di Gaza. Grazie per essere qui dentro al Parlamento, far sentire la sua voce. Esatto, e Triestino Marinello, che ovviamente è, per quanto mi riguarda, il mio punto di riferimento per ogni dubbio da un punto di vista tecnico-giuridico, così come Alessandra Annoni. Detto questo, ci tengo anche a ringraziare, scusate ma è doveroso, tutti i colleghi e le colleghe dell'intergruppo, perché vorrei dire quello che fa l'intergruppo all'interno del Parlamento. Innanzitutto stiamo portando avanti, e ci tengo a dirlo veramente con orgoglio, una collaborazione sincera, seria e soprattutto una vera squadra, un vero lavoro di rete che esce anche al di fuori delle mura del Parlamento e che ci porta sul campo. Cioè l'obiettivo è andare a toccare con mano quello che l'informazione non ci dice o non approfondisce. E questo anche grazie al supporto delle ONG, delle associazioni e dei sindacati. Ci tengo a dire questo perché i media occidentali, tranne rarissime eccezioni, riprendono la versione dell'esercito israeliano senza verificare i fatti o riportare le fonti diverse, e questo ovviamente porta a una informazione non corretta, o meglio al doppio standard occidentale che continua a disumanizzare i palestinesi. I palestinesi non sono considerati esseri umani, e questo è veramente una forma di razzismo gravissima che parte dall'informazione e che crea un'ignoranza all'interno dei cittadini e delle cittadine. Che cosa abbiamo fatto brevemente come intergruppo? A marzo siamo stati dal 3 al 6 marzo al valico di Rafah, con una delegazione, appunto, con ONG, sindacati, giornalisti, esperti accademici, dove abbiamo toccato con mano il genocidio, l'intento genocidiario di Israele, un blocco di oltre 1500 camion pieni di cibo, acqua, medicinali, beni di prima necessità bloccati al valico da Israele. Abbiamo toccato e visto con mano la città fantasma, una città ovviamente in cui molto probabilmente si voleva deportare il popolo palestinese, con una volontà di cacciare i palestinesi dalle proprie terre sull'obiettivo di un fanatismo religioso. Abbiamo sentito chi tutti i giorni è sul campo ed è a Gaza e in Cisgiordania, e abbiamo raccolto i loro appelli, li abbiamo portati dentro al Parlamento, scrivendo immediatamente una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ovviamente abbiamo fatto arrivare perché rispetti quanto anche stabilito dalla Corte Internazionale di Giustizia sulla occupazione illegale, criminale dei territori altrui palestinesi da parte di Israele. Ci tengo a dire che ogni settimana interveniamo all'interno del Parlamento per dare voce a quella che è la reale situazione che si sta consumando in Palestina. e quindi per quanto riguarda il cessate il fuoco immediato, la fine, lo ripeto, dell'occupazione illegale, criminale, militare israeliana, l'apertura dei valichi che oggi sono tutti chiusi per far entrare gli aiuti umanitari, sanitari. Chiediamo il riconoscimento dello Stato di Palestina, il rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani, prevedere sanzioni, stop all'invio di armi, stop alle relazioni diplomatiche e soprattutto boicottare ovviamente chi finanzia le armi e chi finanzia Israele. Abbiamo presentato numerose interrogazioni parlamentari per quanto riguarda la detenzione di cui parla sempre la dottoressa Francesca Albanese, la detenzione arbitraria, i sequestri di persona che vengono fatti per chi esprime un'opinione contraria da parte di Israele all'interno delle prigioni israeliane, che sono vere e proprie torture. È l'unica corte che processa i minori, e di minori ce ne sono tantissimi. Ovviamente noi non ci fermeremo, continueremo in questo lavoro di rete, di squadra, a informare, intervenire nelle sedi istituzionali, e continueremo anche ad andare a toccare con mano nelle prossime missioni quello che è l'orrore che deve essere conosciuto da tutti, perché l'indifferenza e il silenzio ci rendono responsabili. Grazie. Diamo la parola ora a Raji Surani, direttore e fondatore del Palestinian Center for Human Rights di Gaza. I can say this is unprecedented with this genocide going on still the West, except six European countries, Spain, Ireland, Belgium, Luxembourg and Slovenia, still supporting this criminal belligerent occupation, not complicit by being silent, but by the political, legal cover they are providing to this criminal occupation, and by keeping supporting it economically and with arms. We are not killed with the Israeli ammunitions. We are killed with the Western bombs and arms. In questi 11 mesi di genocidio compiuto dalle forze di occupazione israeliane ai danni dei palestinesi nei territori occupati ed in particolare a Gaza, questo genocidio è stato trasmesso in diretta in tutto il mondo, quindi le persone non hanno bisogno che io venga qui a raccontare cosa accade, perché lo sanno. È una situazione senza precedenti. Il genocidio, nonostante questo, continua a poter contare sul sostegno dell'Occidente, con l'eccezione di sei paesi, Spagna, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Slovenia. Gli altri paesi continuano a sostenere l'occupazione, fornendo copertura politica e giuridica e fornendo sostegno economico e armi. Noi non veniamo uccisi dalle munizioni israeliane, veniamo uccisi da bombe e armi occidentali. Ed è per questo che l'Europa ha delle responsabilità enormi per quanto riguarda il crimine di genocidio ai danni dei palestinesi. Mai prima d'ora era successo che le persone avessero consapevolezza di un genocidio in corso e continuassero a sostenerlo. Passiamo ora all'intervento di Triestino Mariniello. E ricordiamo che Triestino Mariniello è ordinario di diritto penale internazionale presso la Liverpool John Moore University e rappresentante legale dinanzi alla Corte Penale Internazionale delle vittime di Gaza. Trasmettiamo integralmente l'intervento di Triestino Mariniello, che evidenzia alla fine anche le responsabilità giuridiche dell'Italia. Riconosco che è molto difficile intervenire dopo l'ACI. Buonasera a tutte e a tutti, e anche io volevo ringraziare gli organizzatori per l'organizzazione e per l'invito a partecipare all'evento di oggi. Dal 2020, come diceva Luisa, ho l'onore insieme a ACI Surani di rappresentare le vittime di Gaza dinanzi alla Corte Penale Internazionale, ed è proprio grazie all'incredibile lavoro svolto dalle organizzazioni per i diritti umani palestinesi, lavoro soprattutto di documentazione, di commissione di presunti crimini internazionali nella striscia di Gaza, nella Cisgiordania e Gerusalemme Est, che nel 2021 la Corte Penale Internazionale ha ufficialmente aperto un'indagine nei confronti delle autorità israeliane per commissioni di crimini di guerra e nei confronti di gruppi armati palestinesi. Siamo nel marzo del 2021, quindi ben prima del 7 ottobre 2023, la Corte Penale Internazionale già diceva, sosteneva di avere prove sufficienti, appunto, aventi ad oggetto la commissione di crimini internazionali da parte delle autorità israeliane. Il maggio del 2024 il procuratore capo, l'avvocato britannico Karim Khan, ha fatto un passo ulteriore. Ha richiesto mandati di arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu e del ministro della difesa israeliano Gallant e nei confronti di tre leader politici e militari di Hamas. Qualche giorno fa, come riportato anche ieri dai quotidiani italiani, lo stesso procuratore ha chiesto che i mandati di arresto vengano emanati dalla Camera preliminare con la massima urgenza. Si tratta di richieste, appunto, di mandati di arresto che hanno una valenza, per così dire, storica, soprattutto per le vittime del contesto israelo-palestinese, perché non hanno accesso a nessun'altra forma di giustizia se non, appunto, quella rappresentata dalla Corte Penale Internazionale. Ma la Corte Penale Internazionale è allo stesso tempo l'unico, probabilmente, strumento di giustizia efficace dal punto di vista della deterrenza che le vittime, soprattutto palestinesi, hanno alla loro disposizione. Visto che riteniamo che le violazioni più gravi dei diritti umani nel contesto di specie avvengano soprattutto grazie al clima di impunità di cui godono le autorità israeliane. L'Italia ha giustamente chiesto l'intervento della Corte Penale Internazionale in altri contesti, ad esempio ha formalmente invocato l'intervento della Corte Penale Internazionale in Ucraina, ma ha ufficialmente attaccato, criticato le indagini della stessa Corte nel contesto israelo-palestinese. Come studioso di diritto internazionale, prima che come avvocato delle vittime palestinesi, devo dire che trovo particolarmente preoccupanti le parole del ministro degli esteri italiani Tajani, che dopo la decisione, appunto, di richieste di mandati di arresto del procuratore capo della Corte Penale Internazionale ha detto, e cito: «È del tutto inaccettabile che si mettano sullo stesso piano Hamas e Israele, i capi del gruppo terroristico che ha avviato la guerra di Gaza, massacrando cittadini innocenti, e i capi del governo eletto dal popolo di Israele». Si tratta ovviamente di una dichiarazione politica che ancora una volta manifesta una chiara politica di doppi standard da parte del nostro Paese, ossia un Paese che sostiene legittimamente il ricorso agli strumenti del diritto internazionale in altri contesti come in Ucraina, ma si oppone agli stessi strumenti in altri contesti, appunto quello israelo-palestinese. Tale politica di doppi standard è stata ampiamente criticata dalle organizzazioni internazionali, tra cui anche dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, che in diverse occasioni ha esortato, nello specifico, l'Unione Europea ad evitare doppi standard tra Ucraina e Gaza. Questo vuol dire che l'Italia e l'Unione Europea dovrebbero mostrare a Gaza lo stesso rispetto per il diritto internazionale che hanno mostrato per l'Ucraina. Ma allo stesso tempo si tratta anche di affermazioni errate dal punto di vista giuridico. Errate perché la Corte, a differenza di quello che sostiene il Ministro, non sta processando lo Stato di Israele. La Corte Penale Internazionale non ha competenza nei confronti degli Stati, ma si occupa delle condotte individuali, quindi di persone, e accerta se condotte individuali configurino crimini internazionali ai sensi dello statuto della Corte stessa, quindi non ha alcuna competenza in merito ad entità giuridiche astratte. Poi il Ministro sottolinea che i capi di governo israeliani sono stati eletti. Ecco, ricevere un mandato attraverso le elezioni non rappresenta una causa di giustificazione per la commissione dei più gravi crimini internazionali. Il procuratore invece sostiene proprio di avere le prove sufficienti per dimostrare che Netanyahu e Gallant abbiano commesso i crimini efferati contro i civili palestinesi, ne cito soltanto alcuni, tra i quali crimini ampiamente documentati anche da diverse organizzazioni internazionali, dalla Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite. Parliamo appunto in merito alle accuse rivolte a Gallant e Netanyahu di crimini di guerra, di affamare intenzionalmente la popolazione civile come arme di guerra, quella di omicidi volontari, scusate, oppure di condurre attacchi intenzionali contro la popolazione civile, ma anche crimini contro l'umanità, quali quelli di sterminio e persecuzione della popolazione palestinese. Mi avvio alla conclusione rilevando che l'Italia non può quindi ignorare le fonti di diritto internazionale ed interne, tra cui gli articoli 10 e 11 della nostra Costituzione, nel momento in cui si trovi a decidere se sostenere o meno quegli strumenti del diritto internazionale al momento disponibili. Se il nostro Paese continua ad opporsi a tutti questi strumenti di diritto internazionale creati proprio per evitare il ripetersi degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, non farà altro che lasciare spazio soltanto alla legge del più forte, contribuendo a perpetrare uno scenario di morte e di ripetizione ciclica delle spirali di violenza armata nel contesto palestinese, israelo-palestinese. In termini concreti, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che appunto per rispettare gli obblighi che derivano all'Italia dal diritto internazionale, l'Italia dovrebbe prima di tutto riferire la situazione in Palestina alla Corte Penale Internazionale, perché come dicevo prima il contrasto all'impunità potrebbe essere un prerequisito importante per una soluzione pacifica della crisi. Dovrebbe rispettare le tre ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia. Questo rispetto include, a mio avviso, anche la necessità di fare pressioni affinché tutti i valichi della striscia di Gaza siano aperti immediatamente, che l'Italia faccia pressioni nelle sedi opportune per un cessato il fuoco permanente. Le misure della Corte Internazionale di Giustizia, le misure vincolanti della Corte Internazionale di Giustizia possono essere eseguite soltanto in un contesto in cui Israele termini immediatamente la sua operazione militare. Ed infine che l'Italia adotti sanzioni contro Israele, come è stato fatto con la Russia. Tra le sanzioni bisognerebbe partire da un embargo totale di armi ad Israele, in linea con quanto con le scelte di un numero crescente ormai di paesi, anche di paesi occidentali. L'ambigua posizione, e concludo, del nostro governo, che in modo poco trasparente continuerebbe ad autorizzare in parte il trasferimento di armi ad Israele, viola chiaramente il diritto internazionale e potrebbe comportare anche una responsabilità nei confronti dell'Italia per complicità in commissione di atti plausibilmente genocidi. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Passiamo ora all'intervento di Francesca Albanese, che ci parla della Convenzione sul genocidio e sulla sua applicazione. Si parla di genocidio perché è necessario parlare di genocidio, non dobbiamo avere il timore di utilizzare questa parola, così come prima del 7 ottobre avevamo timore ad utilizzare la parola apartheid, perché il genocidio non è definito da quello dall'esperienza personale o dall'esperienza di paesi specifici. Il genocidio è definito dalla Convenzione appunto sulla prevenzione e la punizione del genocidio, quindi sono crimini come l'uccisione, la creazione di condizioni di vita calcolate per portare alla distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso e l'inflizione di sofferenze fisiche e psichiche a membri del gruppo. L'elemento caratteristico del genocidio è l'intento di distruggere attraverso questi atti, attraverso questi crimini, il gruppo in tutto e in parte. E nel mese di marzo io ho concluso che Israele aveva già commesso atti di genocidio e ha continuato a commetterli, e adesso è il rischio che l'assalto genocida si estenda anche ad altre parti del territorio palestinese occupato. Nel frattempo quest'anno ci sono state c'è stata una scossa sismica dal punto di vista della giustizia internazionale, perché se per tanti anni non si è mosso nulla, quest'anno non solo, grazie al procedimento avviato dal Sudafrica, la Corte di Giustizia Internazionale ha riconosciuto la plausibilità di genocidio, quindi il caso non è stato dismesso, non solo nel caso di Israele, ma anche in un altro caso, nel caso intentato contro la Germania da parte del Nicaragua per complicità con atti di genocidio. Quindi il fumus di crimine c'è. E in sede d'urgenza, come ci ricordava Triestino, sono state emesse tre serie di misure cautelari, tutte queste disattese da Israele e anche dagli altri stati che avevano l'obbligo di intervenire, perché vedete, la Convenzione sul genocidio ha l'obbligo di prevenire, quindi quando c'è il mero sospetto che possa essere causata la distruzione di un gruppo, di un popolo in tutto in parte, bisogna porre in essere tutte le misure necessarie, e ci arriverò tra un minuto. Quindi Bisogna anche, personalmente sono critica dell'analisi che il procuratore della Corte Internazionale ha fatto sino a questo momento, perché ha analizzato una serie di crimini decontestualizzando ciò che succede in Palestina e non prendendo in considerazione quello che succedeva prima del 7 ottobre, cioè c'è una colonizzazione in atto. Peraltro quest'anno c'è stata, 2 mesi fa, una decisione della Corte di Giustizia Internazionale che dichiara l'occupazione illegale come presenza civile, come presenza militare, e richiede lo smantellamento di tutte le truppe, di tutte le colonie, le 300 colonie che Israele ha stabilito nella Cisgiordania. Quello che Israele sta facendo è cercare, attraverso la guerra, come è successo nel 47 e nel 67, di conquistare il territorio che rimane ai palestinesi, scacciandoli. La pulizia etnica può essere il fine, il genocidio è il mezzo. E il secondo punto che volevo sollevare, riallacciandomi a quello che diceva di Triessino, trovo scioccante l'indifferenza dei paesi occidentali, di un paese come l'Italia, che ha degli obblighi costituzionali e internazionali che lo spingerebbero all'azione. Ci troviamo dinanzi ad una crisi umanitaria, crisi politica e crisi del diritto internazionale, che è la base del sistema che ci siamo dati, che abbiamo costruito negli ultimi 75 anni, e quindi è necessario veramente fare un passo indietro e vedere come aiutare tanto gli israeliani, tanto i palestinesi quanto gli israeliani, perché io non credo che una società che è attraversata da uno shock, un'intolleranza, un odio ideologico come quello che ha intrappolato la popolazione israeliana dopo il 7 ottobre possa non scavare alle radici e mettere in pericolo l'esistenza stessa della società israeliana. L'ultimo punto sul quale mi volevo soffermare è che cosa è necessario fare alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, che pone un obbligo in capo a tutti gli stati in relazione al procedimento della Corte di Giustizia per genocidio. C'è un obbligo degli stati di non riconoscere, non prestare assistenza e non cooperare con uno stato che commette violazioni internazionali. Israele, ai sensi dell'articolo 25 della Carta delle Nazioni Unite, è uno stato che viola in modo seriale il diritto internazionale. È uno stato d'eccezione, come ci ricorda, è nato come uno stato d'eccezione rispetto al diritto internazionale, come ci ricorda lo storico Raz Sigal. Però questa cosa va corretta, e ripeto, è nell'interesse dei palestinesi e degli israeliani. Quindi è necessario addivenire ad un embargo di armi e anche ad un embargo di carburanti che sono destinati al doppio uso, quindi ai jet che bombardano tanto Gaza quanto la Cisgiordania, e sospendere le relazioni diplomatiche. Uno dei primi passi che l'Italia dovrebbe fare assieme agli altri paesi è rivedere tutte le relazioni che mantiene con lo Stato di Israele, perché quelle vanno sospese. Siccome non credo che questo governo lo farà, io avevo chiesto al ministro Tajani un incontro, lo ha declinato senza addurre motivo, quindi non ho potuto trasmettere queste preoccupazioni e queste sollecitazioni. Comunque è importante che lo facciano coloro che ancora una coscienza ce l'hanno, ancora un'umanità ce l'hanno. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista, in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria. Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Alfata. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Riprendiamo con l'intervento di Laura Boldrini, seguito da quello di Nicola Fratoianni. Tutti coloro che parlano di questa strage, io non posso immaginare come si possa oscurare quello che ha detto anche la regina Rania di Giordania a Cernobbio. Pochissimi l'hanno riportato, ma la stessa cosa è stata per la regista americana Sarah Fredland, che ha vinto il Leone del Futuro a Venezia. Nel ricevere quel premio ha parlato, le sue parole sono state totalmente oscurate. Noi in Parlamento prendiamo la parola, ma è come se nessuno aprisse bocca, perché non risulta questo da nessuna parte. Ecco, allora anche questo indigna. Questo indigna perché, vedete, noi stiamo rischiando grosso. Il doppio standard ci seppellirà. Ci sono milioni di persone nel mondo che non accettano più questo doppio regime. L'Europa nei confronti dell'Ucraina ha usato rigore. Bene ha fatto, perché non si invade un altro paese. Ma allora ha chiesto subito le sanzioni. Il mandato è anche di agire da parte della Corte Penale Internazionale. Ha fatto tutto quello che era nelle proprie facoltà di fare. Ecco, tutto questo non si vede per la Palestina, per Gaza. E noi nel fare questo perdiamo totalmente credibilità. Come facciamo oggi noi a rimproverare un paese in quanto Europa se non rispetta i diritti umani, quando noi siamo i primi ad adottare il doppio standard? C'è una perdita drammatica di credibilità in questo modo di agire. E allora sì, stop alle armi. C'è chi l'ha fatto, la Gran Bretagna l'ha fatto, il Canada l'ha fatto. Perché l'Italia non lo fa chiaramente? Nel senso che dice sì, certo, noi abbiamo la legge, la 185, che lo vieta. Però noi sappiamo che le vecchie commesse vanno avanti. E invece bisogna farlo come atto politico, non, a prescindere dalla legge che lo vieta. Non si possono mandare armi a chi le usa contro i civili. Deve essere un principio fondamentale. Le sanzioni. Non è successo niente, nessuna sanzione. Quando Borrell ha detto sanzioniamo i ministri che istigano all'odio, non è riuscito a trovare l'unanimità in Europa. Allora così che il mondo poi non ci rispetta più. Come fa a rispettare il mondo chi non riesce a tenere fede neanche alla propria storia, al motivo per cui esiste? Cioè l'Unione Europea esiste come progetto di pace e come faro dei diritti umani. E poi l'accordo di associazione Unione Europea-Israele. L'accordo di associazione Unione Europea-Israele, come tutti gli accordi di associazione, si fa se il paese con cui ci si associa rispetta i diritti umani. Allora io mi chiedo, come si fa a non aver sospeso questo accordo? Quando siamo di fronte, evidentemente, qui non ci vuole la Corte, a crimini, perché io in tanti anni che mi sono occupata di questioni umanitarie non ho mai visto una cosa del genere. È un crimine affamare le persone, è un crimine non consentirgli di curarsi, è un crimine tagliare l'acqua, è un crimine bombardare gli ospedali, le scuole, uccidere i giornalisti, non fare entrare la stampa internazionale. E qui apro una parentesi sul ministro degli esteri italiani, che ieri al Question Time giustamente ha lamentato che in Venezuela la stampa vive momenti difficili, mentre la stampa deve avere tutte le tutele. Certo, ministro Tajani, certo. Io credo che sia vero in Venezuela, ma credo che sia vero anche a Gaza, dove invece i giornalisti internazionali non possono entrare perché le autorità israeliane non lo consentono e quelli che sono dentro, i palestinesi, vengono sistematicamente ammazzati. 170 giornalisti sono stati uccisi. Allora, ministro Tajani, due pesi e due misure. Basta, non funziona più. Voi fate perdere anche al nostro paese la dignità, perché questo non è un modo. Sono muti, non condannano mai l'operato di Netanyahu. E se siamo arrivati al cessate il fuoco a approvare un atto parlamentare, è solo perché loro si sono astenuti. Come fanno le Nazioni Unite, d'altronde? Si astengono. Palestina, Stato a pieno diritto? Loro si astengono. Ecco, allora noi siamo contrari a questo modo, riteniamo colpevole chi non si assume le proprie responsabilità, colpevole verso appunto le vittime, ma anche verso il diritto internazionale, la legalità internazionale, che è l'unica garanzia che noi abbiamo per non ritornare al tempo della giungla. Vi ringrazio. Io non credo che noi viviamo in una condizione di indifferenza. Anzi, ho l'impressione che nel paese, nella società italiana, cresca ora dopo ora, giorno dopo giorno, da un lato la solidarietà nei confronti del popolo palestinese, dall'altro lo sdegno, l'indignazione di fronte al genocidio in corso. Noi viviamo in una condizione segnata drammaticamente dall'insopportabile ipocrisia delle istituzioni repubblicane, è una cosa diversa. Ed è di fronte a questo che dovremmo organizzare una reazione ed una iniziativa politica ed istituzionale. Mi concentro solo su questo perché credo che ciascuno e ciascuna di noi, dentro la dinamica dell'alleanza che ha giustamente ricordato Luisa, quella di una coalizione politica e sociale, ciascuno e ciascuna di noi debba utilizzare gli strumenti di cui dispone per far fare un passo avanti a ciò che riteniamo necessario. Abbiamo fatto insieme la carovana solidale fino alle porte di Gaza, dal lato egiziano, stiamo discutendo di come oggi organizzare una presenza diretta, come ha ricordato Stefania, in Cisgiordania, oggi altro luogo di una nuova, ulteriore, non certo la prima, offensiva brutale che, se possibile, conferma ancor di più l'intento genocidiario del governo di ultradestra di Israele. E tuttavia penso che come intergruppo parlamentare abbiamo un ulteriore compito, lo dico ai colleghi e alle colleghe con cui condividiamo punto per punto ciò che anche oggi è stato qui riproposto, a cominciare dalla necessità, per rompere il muro dell'ipocrisia, di un salto di qualità. Siamo di fronte al naufragio definitivo del diritto internazionale, no Triestino? Questo è il punto. Il naufragio del diritto internazionale. È un naufragio generale, non solo segnato dall'ipocrisia, ma dalla evidente impotenza di qualsiasi luogo sovranazionale a applicare le conseguenze delle scelte assunte, anche quando queste avvengono sull'onda di un doppio pesismo, no? Veniva ricordato giustamente come di fronte all'invasione russa dell'Ucraina siano state rapidamente prese misure molto significative, dai mandati di arresto alle sanzioni. Le sanzioni sono state sì applicate, i mandati di arresto anche quando chi ne era, diciamo, oggetto si trovava, come è accaduto recentissimamente col presidente russo in uno dei paesi firmatari della convenzione, non è stato eseguito. Siamo di fronte al naufragio delle Nazioni Unite, e questo è un enorme problema. E allora occorre, diciamo, investire perché innanzitutto le istituzioni nazionali, sovranazionali, europee recuperino, diciamo, dignità. Recuperino dignità mettendo in campo almeno le azioni di cui sono non solo responsabili ma potenzialmente attori e attrici, le sanzioni appunto. Chiedere che l'Unione Europea interrompa il trattato di associazione significa chiederne il rispetto di quel trattato, perché l'articolo 2 di quel trattato dice a chiarissime lettere che quel trattato va sospeso in caso di violazione sistematica e palesi dei diritti umani. Che cosa deve succedere ancora perché venga accertata quella violazione? Chiedere che venga sospeso quel trattato significa applicarlo. Neanche questo riusciamo a fare. Le sanzioni non ne parliamo, diciamo. C'è stato risposto che si sono fatte qualche sanzione su qualche comportamento dei ma siamo lontanissimi. Ora, e qui ho finito, come intergruppo abbiamo un compito: lavorare ciascuno anche all'interno delle sue forze politiche perché maturi anche su questo una posizione più avanzata, perché noi lo sappiamo, siamo d'accordo, ma se guardiamo ai testi, alle risoluzioni, agli atti parlamentari presentati fino ad oggi, non c'è solo il governo, anche dalla parte dell'opposizione c'è ancora da fare. E allora penso che noi tutti e tutte che lavoriamo assieme con grande, diciamo, omogeneità ed empatia, dobbiamo lavorare perché i prossimi atti parlamentari segnino un ulteriore passo avanti. Sappiamo che anche quegli strumenti non hanno la forza di per sé di cambiare le cose, i rapporti di forza sono quelli dati, e finché non cambieranno, non è un caso che anche quello che è accaduto in Inghilterra sia accaduto dopo un cambio di governo. La decisione sulle armi avviene dopo un cambio di governo, e questo attiene naturalmente ai processi politici, ma intanto anche guadagnare un ulteriore elemento di avanzamento nella costruzione di atti parlamentari che con chiarezza rompano il muro dell'ipocrisia è qualcosa su cui noi tutti e tutte, almeno dentro questi palazzi, possiamo provare a costruire un'iniziativa efficace. Grazie. لو مرة بس تخفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاحي لي بأرضك غفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بخلا ممتلا كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا جمرتي نالو من ضلوعك وأنا كرث الحزن اللي بخاطري يمكن إذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب ظلم ليك المعتدي يا دمعنا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت طحب طلت شهيد حتى الفرح قرب وجرح لما الحزن بالعشق جوز كيف الحزن بغلى وطول أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب يا غزة أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب. Queste le iniziative per la Palestina che si terranno in questa seconda parte di settembre sul territorio toscano. Oggi 18 settembre alle 18 a Pisa presidio solidale e di denuncia del massacro a Gaza e in Cisgiordania organizzato dal coordinamento per il boicottaggio di Israele. Domani 19 settembre alle 19.30 al CPA, Centro Popolare Autogestito, si terrà un incontro e la presentazione del dossier sulla tortura realizzato da Sanitari per Gaza. Seguirà una cena il cui ricavato servirà ad aiutare le famiglie palestinesi che hanno avuto bambini ricoverati al Meyer. Il 21 settembre a Gavinana, manifestazione contro la NATO organizzata dal comitato Non ci sto. Il 21 alle 19, dalle 19 in poi, chiusura di via Bronzino, rinominata Via della Pace. Evento straordinario realizzato da oltre 20 associazioni pro-Palestina e per la pace. Si terrà una cena il cui ricavato andrà a finanziare l'ospedale di Al-Auda e i militari renitenti alla leva. Ci sarà un microfono aperto a cui tutti potranno accedere per interventi di un massimo di 3 minuti. Il 23 settembre in piazza Elia della Costa alle 21 Mercato Contadino presenta Gaza Fight for Freedom di Abbe Martin con proiezioni e laboratori di ceramica per bambini in collaborazione con il CPA. Il 26 alle 21 evento alla Casa del Popolo in via delle Porte Nuove con la presenza di Walid, fondatore di Human Supporter Association, associazione che si prefigge di potenziare, nobilitare e servire la comunità locale di Nablus con progetti rivolti in particolare ai bambini, ai giovani e alle donne. Il 28-9 a Figline di Prato, all'interno della manifestazione di Antares, il Circolo 29 Martiri presenterà Mohamed Awad che esporrà un suo intervento. Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Best Jerusalema Dance Movie Worldwide di Amal Murkus, avete ascoltato Rebel as Che Guevara. A seguire O Palestine, original song by Set Station Watkins. Avete ascoltato poi Rossa Palestina in Italian Pro-Palestinian Song.